quel posto lì in death. Il futuro non c'è, niente lacrime, sei solo il mondo contro di te. Quel posto lì in death. Il futuro non c'è, niente lacrime, sei solo il mondo contro di te. Sono solamente un uomo e prego per una vita migliore, cieco. Non ho altro che me stesso. Tra questi animali il tempo è perso. Nella vita niente è concesso. Non sarò mai più lo stesso. Il mio dolore consuma dal petto. Niente cuore, niente affetto. Pensaci, guerriero sconfitto. Animi senza più fuoco, vortici mi portano a fondo così. Niente mi dà più forza. Sono sceso dalla giostra. Milano terra di sforza. Testa cubica e contorta. Tony, ambizioso come pochi. Combatto contro i selvaggi, massiccio contro i malvagi. Trattati come cani, non sono vostro pari. Io sono superiore, perché vivo nel dolore. Questo è l'uomo d'acciaio, lui vive sul sipario. Non vuole essere un gregario, signore e principe del barrio. L'uomo d'acciaio è fragile, l'uomo d'acciaio è forte. Galvanizzato a botte, combattere o morte. Questo è il death, il futuro non c'è. Niente lacrime, se solo il mondo è contro di te. Questo è il death, il futuro non c'è. Cado io, cade il mondo, il paese muore con me. Questo è il death, il futuro non c'è. Niente lacrime, se solo il mondo è contro di te. Sono d'acciaio, nigga. L'uomo d'acciaio, nigga. Sono d'acciaio, nigga. L'uomo d'acciaio, nigga. Noi siamo generazione senza futuro. La mia vita contro un muro. Io ho perso dentro al buio. Queste ombre dal mondo oscuro cercano me, stanne sicuro. E non importa quanto sei duro. Uccidono l'animo, uccidono il puro. Niente Dio, spergiuro. Gerusalemme in vista, terra promessa dista. Chilometri in testa, marciato per la vetta. Da anni sono in guerra, qual è la ricompensa? La mia ricompensa, vita vissuta, passata in fretta. Vita cocciuta, il male in terra. Pace nei cieli, a me la mia gloria. Pace nei cieli, a me la vittoria. Triste suono, triste storia. C'è chi muore, c'è chi prega. Cerco il sole, la mia strega. Un cavaliere senza gloria. Un cavaliere senza gloria. Muoio per te, mia nobile donna. Lacrime per questa donna. Sangue santi per le strade. Nel mio petto dimentica. Niente sole, niente amore, rimane solo l'ambizione. Deo solo invictus, Deo solo invictus. Questo è il death, il futuro non c'è. Niente lacrime, se solo il mondo è contro di te. Questo è il death, il futuro non c'è. Cado io, cade il mondo, il paese muore con me. Questo è il death, il futuro non c'è. Niente lacrime, se solo il mondo è contro di te. Sono d'acciaio, nigga. L'uomo d'acciaio, nigga. Sono d'acciaio, nigga. L'uomo d'acciaio, nigga. Questo è il death, il futuro non c'è. Niente lacrime, se solo il mondo è contro di te. Questo è il death, il futuro non c'è. Cado io, cade il mondo, il paese muore con me. Questo è il death, il futuro non c'è. Niente lacrime, sei solo il mondo è contro di te. Sono d'acciaio, nigga. L'uomo d'acciaio, nigga. Sono d'acciaio, nigga. L'uomo d'acciaio, nigga.